Signore e signori, bentrovate, bentrovati ad Aspettando l'Eurovision Song Contest 2021, pillole quotidiane in attesa del concorso canoro più famoso d'Europa e forse del mondo, in programma Rotterdam, domani 18 maggio, giovedì 20 maggio, ed è la gran finale, sabato 22 maggio, 39 canzoni in rappresentanza di 39 nazioni si affrontano alla Ahoy Arena di Rotterdam, si sono già svolte tutte le prove, si è svolta ieri sera la cerimonia di apertura e il turquoise carpet, il tappeto turchese, non red perché è il colore dello sponsor. Oggi è il turno della Gran Bretagna e il rappresentante inglese quest'anno si chiama James Newman. Sometimes I know my fire burns low, but as long as you're with me I'll never get cold. Day and night through darkness and light, never worry when you're by my side. All feelings change and seasons fade, but nothing will burn us out. Nothing can stop us now. Out of the embers, you and I are gonna light up the room. Fratello del più celebre John Newman, la sua carriera si è sviluppata quasi esclusivamente come autore per alcuni dei nomi più importanti del pop britannico. Ha vinto il Brit Award per Waiting All Night e Rudimental. Ha scritto tra gli altri per Jess Glynne, Jessie Ware, Holly Moores, Lewis Tomlinson, ex One Direction e per i Backstreet Boys. Era stato selezionato internamente dalla BBC nel 2020 ed è stato riconfermato nel 2001. Il suo ultimo album e anche il primo come cantante è uscito nel 2020. La canzone si chiama Embers, Braci. C'è ancora qualcosa sotto la cenere. E in scena va con due gigantesche trombe di legno. Gigantesche, grandi, grandi. Lui passa ogni anno le vacanze a Norcia, in Umbria. Ha dichiarato di amare i prosciutti e i formaggi della tradizione gastronomica italiana. E il Regno Unito è la disperata ricerca di un risultato degno del proprio blasone musicale. Sembra un po' la NBA quando mandava alle Olimpiadi i campioncini dell'università, non partecipavano i professionisti. Il Regno Unito ha vinto per la prima volta nel 1967, si è ripetuto 5 volte, ma ha un record di ben 15 seconde posizioni. Aspetta una vittoria da 24 anni, da quando l'Italia era quarta con i Jalis. Dal 1997, infatti, la bandiera britannica non sventola sul pennone più alto dell'Eurovision Song Contest. Alla sua 63esima partecipazione, il Regno Unito ci presenta Embers, cantata da James Newman. I bookmakers scuotono la testa, non è dato tra i protagonisti. L'Olanda è uno dei paesi in cui la crisi si è fatta meno sentire. La disoccupazione è rimasta sempre bassa e lavorare nei Paesi Bassi significa oggi aprirsi ancora a un mondo del lavoro ricco di opportunità. I Paesi Bassi offrono un mondo del lavoro molto dinamico, ottime condizioni lavorative, diversi benefit e un rapporto stipendi-costo della vita invidiabile. In cambio, però, si richiedono grande serietà, impegno e un'eccellente conoscenza della lingua inglese. Le maggiori opportunità sono per i lavoratori specializzati, medici, biologi, ingegneri industriali ed elettronici, architetti, chimici e specialisti del settore agricolo. Sono molto ricercati anche i sistemisti, i programmatori, gli specialisti del cloud e del networking, i grafici e designer, i commerciali e gli esperti di analitica finanziaria. Ricchi di opportunità sono anche i settori delle energie rinnovabili, delle biotecnologie, quello tecnologico e quello elettronico. Prendiamo però la macchina del tempo e andiamo nel 1975, dove l'Italia portava una coppia di fatto, una coppia artistica, non una coppia della vita. Loro erano Wes e Dori Ghezzi e l'Italia portava un funky slow. Way, let's groove, era terzo posto. Mood Sound. Da un po' di settimane in qua mi sento un'altra donna già, che vada tutto a rotoli. Ora, ora, ora, accanto a te ci sono io, amore sono tutto tuo, e sembra quasi un secondo quando far l'amore baciarsi a un cinema. Era la mia domenica, ero trovato un angolo nascosto, era, era, era uscire in pubblico, era parlarsi in codice, era entrare prima della sera. Che conosciute mai, la posta tra la biancheria. Era ora, ora, ora sfido il mondo io, un amore quando è mio, e sembra quasi un secolo. Quando far l'amore. Ed erano l'indovina che viene a cena della canzone italiana. Raccontano di un amore che fu clandestino, con le lettere nascoste nella biancheria e il baciarsi al cinema, di un amore avversato dalla famiglia. Wes e Dori Ghezzi, tutti si chiedevano se stessero insieme. La risposta è no, erano una coppia solo artistica che ebbero un certo successo tra il 1973 e il 1976, vinsero Canzonissima, e grazie alla vittoria di Canzonissima 75 si qualificarono per l'Eurovision, che infatti in quegli anni era abbinato a Canzonissima e non al Festival di Sanremo. Questa è una canzone che ha un groove pazzesco, si chiama Era. Sul palco dell'Eurovision Song Contest 1975 per l'Italia c'erano Wes e Dori Ghezzi con Era. Signore e signori, avete ascoltato Aspettando l'Eurovision Song Contest 2021, pillole quotidiane che passano in rassegna le 39 canzoni in rappresentanza di 39 nazioni che già da domani sera si danno battaglia alla Ahoy Arena di Rotterdam. Domani sera 18 maggio, prima semifinale, la potete vedere su Rai 4 con la conduzione, la telecronaca di Emma Stoccolma e Saverio Raimondo. Gli altri appuntamenti sono per giovedì 20 maggio e la finale sabato 22 maggio su Rai 1. Domani i primi 6 paesi vanno a casa, noi oggi abbiamo ascoltato la Gran Bretagna, domani sarà il turno del paese ospitante, andremo ad ascoltare la canzone dei Paesi Bassi.